YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, il nostro appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, web TV e social TV. Mi sta venendo il fiatone, quante sì. cose, di quante come cose dice parliamo? Vasco, siamo ancora qua e abbiamo i nostri account che sono Marta Cagnola di Twitter, di Bellasio, l'hashtag Radio Tube. Siamo ancora qua per parlare di un sacco di cose, ma iniziamo come? Iniziamo ballando un po', ballando. Perché questa settimana abbiamo ballato tutti, io ho ballato tantissimo questa settimana, la festa per i 15 anni della Radio Tube. Ho visto dai tweet che ti sei data la pazza gioia. Ho ballato tantissimo. Brava. Mi è piaciuto assai. Tu come balli? Come il mio inglese, io mi getto. Esattamente come il Globish di Renzi, io mi getto e quindi ballo. La gente si stupisce. Infatti quando mi dico "Ma tu balli?" sento che sono vecchio, ma poi forse ne parliamo. Vabbè, andiamo. Sì, poi forse ne parliamo. Sai chi ha ballato questa settimana? Dunque, Michelle Obama, la First Lady, ha fatto una specie di rap di 6 secondi perché Vine. Cos'è un Vine? Allora, spieghiamolo bene agli ascoltatori, perché mica tutti sono lì con lo smartphone o il tablet. Un piccolo ma incisivo, un inframuscolo di YouTube. Sì, sono 6 secondi sì. che poi vanno in loop, cioè continuano a ripartire, no, costantemente finché non li fermi. Uno, sì, che poi sono un po' come il corrispettivo degli audio di WhatsApp. Ah, certo, hai presente quello che tieni col pulsantino? Piccolissimi, bellissimi. Piccolissimi. Ascoltiamo questi 6 sì, secondi, poi spieghiamo vediamoli, perché, sentiamoli. Lei sorride. Turn up for what? Sono questi, sono solo questi. Sai allora... che sarebbe un jingle perfetto per una trasmissione questa? Dici? Ti sì, piace? Turn piace for what? Molto. C'è il doppio senso, eh? Sì, lo dobbiamo... l'ho letto, allora, non lo sapevo ma l'ho letto. La canzone è Turn Down secchionica. For What, sì, perché io sono un po' secchiona. Turn Down For What di sì. DJ Snake e Lil Jon. Lei dice Turn Up For What, che for vuol dire... What? Allora, turnip è sì. la rapa. Sì, e lei, che lei ha in balla mano. Con una rapa in mano, cioè lei è la solita storia che lei vuole insegnare agli americani a mangiare bene e quindi balla con la rapa per 6 secondi, però si capisce che c'ha stile sì, Michelle. Beh, però non si è ballato soltanto alla Casa Bianca, non si è ballato solo con le rape, è tempo che io volevo parlare di questa cosa qua. Sì, sbaglio sempre il nome, mi scuso con chi ha inventato il format ballando di Rai 1 con le stelle. Io dico sempre sotto, sì sotto, no, le stelle. Perché balli insieme alle insieme stelle. Alle stelle tu balli con tuo figlio che no, balla lui, estremamente lui bene, lui balla la bene. Ho scoperto che mio figlio di 6 anni è l'ascoltatore tipo di Rai 1. Perché no, le guarda tutte. Ma fa saltare però gli studi di marketing, non è la rete dei signori adulti maturi. Probabilmente tornerà invece con le nuove generazioni. Può darsi, chi può lo darsi. Sa, chi comunque lo lui sa. Vuole sempre guardare Milly Carlucci di Ballando. E c'è un personaggio che però piace particolarmente a te, che è Giorgio Albertazzi. Lui però, anche sì? lui. Sì? Beh sì. Sì, no, perché io... c'ho questa cosa per cui non sono d'accordo con Zazzaroni. Possiamo parlare anche sì, se lavora sì, parliamo, un po' per l'altra radio. Sì, vabbè, non sì. importa, noi siamo no, sportivi. Perché Zazzaroni è critico, no, del fatto che Zazzaroni, che Albertazzi balli. Beh, insomma, avendo 91 anni non è che può proprio... non può darsi a evoluzioni sì, atletiche. Vabbè, ma sembra mio fratello minore. Sai 91. Cosa ha fatto Milly Carlucci? Nel suo sito millycarlucci... Beh, dai, povera Milly, millycarlucci.net. Sì, cosa ha fatto? Sentiamo in sottofondo un piccolo audio di un video. Questi sono... gli audio delle prove di Giorgio Albertazzi. Ha detto una parolaccia? Nell'esibizione c'era la parolaccia, ma noi le parolacce fanno parte della vita. E lei mette i video. Ormai che, il backstage delle prove, social, no. social anche lei. Cioè, ma tu con chi stai? Con me o con Zazzaroni? Cioè, Albertazzi balla. Mi fa molta cioè, tra tenerezza e compartecipazione, lo amo molto. Vabbè, non è che bisogna essere degli atleti e poi fare non ti posso sette... tradire per Zazzaroni, scusa. No, non beh, così davanti a tutti. Per ben altri mi tradirai, no, presto, con i jingle. Ma... non davanti a tutti. Ma il video più diffuso, più condiviso della settimana è stato invece quello che riguarda quello che è successo alla bravissima Giusy Versace. Eccola qua. Ecco. È inutile nasconderlo, nel senso che evidentemente è capitato un quid pro quo, un incidente. Ma una, in questo programma c'è chi ha perso l'extension, chi ha perso le scarpe, chi ha perso... E io perdo le gambe. Ha perso una gamba. Vabbè, dai, per capitato. Lei è normale, è una cosa normale per lei. Posso dire una cosa? Sei una ragazza molto in gamba. No, che battuta. No, è vero. Vabbè, un po' di politica... Un po' di imperdibile, esatto. Diciamo. No, hai messo un po' di imperdibile. Un po' di politicamente scorretto, sì, in prima, diciamo, serata Rai 1. E bravissima però Giusy Versace, che come sappiamo insomma porta le protesi, perché insomma è anche un'atleta paralimpica, sì. È bravissima e con grande simpatia e grande ironia, insomma, è successo, sì, questo piccolo incidente. Lei è stata molto brava. La rete l'ha condiviso molto e tutti, sì, ti fanno moltissimo per lei. Radio Tube. Oh, bentornati con il nostro dopo Radio il traffico. Tube. Dopo, sai che questa settimana a Milano un traffico, se c'era 58 capi di stazione, c'era tutto. Sembrava c'era Roma, tutti. Per una volta assomiglia a Roma. Sì, sì, sì, era anche dalle nostre parti, anche dalle parti di Piazzale Lotto, no, di Via assolutamente. Monterosa. Erano tutti alla festa di Radio 24, sì, e al vertice ASEM. Sì, sì, io proprio... Qualcuno ha fatto la spola tra i due eventi. Cioè, io ovviamente. Quei tacco 12. Col tacco cinese, 12, di cui il sopra. Putin. Parliamo un po' di politica. Sì, ecco, parliamo di politica, però non sempre di Matteo Renzi. Non parliamo di Matteo Renzi, no, stavolta. No, anche se c'è stata la manovra, tutto, tanto no, ne hanno già parlato tutti. Sai invece di chi vorrei parlare? Un altro di cui non parliamo mai. No, guarda che ne parliamo molto di meno, eh. Sì, effettivamente, ultimamente di Beppe Grillo stiamo parlando un pochinino meno. Meno, ma però è tornato. È tornato, beh. Dobbiamo è tornato dire perché che ha fatto Circo Massimo. Sì, e Circo intanto Massimo. Tanti avevano previsto il Circo Massimo vuoto e non era vuoto, diciamo. Beh, per i Rolling Stone forse c'era qualcuno in più. Però, ma non perché so, non c'erano i gazebo, quindi non si riusciva a riempire tutto. Vabbè, però, però è andato Circo Massimo. E poi, purtroppo, lo dobbiamo dire, insomma, noi siamo sempre allegri e fanfaroni. Insomma, sì, Genova, però Genova è un disastro. Genova è stato un disastro. E ci ha fatto molto male. Però sui social, social che sono stati peraltro utilissimi. Sì. Per gestire l'emergenza. Io vorrei dire una cosa per gestire l'emergenza. A chi gestisce gli account Twitter delle istituzioni, tipo Comune di Genova, che ha iniziato a funzionare benissimo dopo che la tragedia era avvenuta, è meglio farli funzionare sempre, di modo che tu, quando poi hai bisogno di comunicare, hai già tanti follower. Non è che ti devi ricordare dell'esistenza dell'account di Twitter soltanto quando succede qualcosa, vero, per cui hai necessità. Vero. E quindi bisogna viverci tanto nei social, proprio perché tu hai bisogno di avere tanti follower per essere più utile quando davvero ti serve comunicare. Ma vabbè, come profondo oggi, Daniele Bellasio. Parentesi. Ma perché parliamo giustamente di Genova e insieme di Beppe Grillo, Daniele? Perché è stato contestato. È stato contestato, è arrivato a Genova, abbiamo l'audio. Intanto lui è arrivato, io dico questo, già mi schiero. Ah, già ti schieri così? Sì. Vabbè, sentiamo l'audio dell'arrivo, mostriamo il video alla radio e poi ne parliamo, eccolo qua. Prendi la palla e mandami la palla! Ma sei veramente un tipo in gamba! Sei veramente in gamba! Oh, Fabio! Monta. Per avere qualche foto devi star nazzare a quella maniera! Io ero a spalare, bello, fino a un'ora fa! Tutti a spalare erano loro, tutti a spalare! Tutti siamo dalla stessa parte, siamo dalla stessa parte, andate a far spalare Renzi, noi siamo tutti a spalare, tutti a spalare sono i nostri, tutti, andate a vedere, tutti i parlamentari, andate a vedere. Vabbè, ci rivediamo dove ci siamo visti la prima volta. Vai, ci vediamo lì. Lì, vai. Beh, insomma, toni inevitabilmente molto alti. Questo è il momento dell'arrivo di Beppe Grillo a Genova. Questo è un video che, insomma, questa settimana si è visto tantissimo in rete. Ne parliamo con un ospite? Sì, ne parliamo con Mario Rodriguez. E io leggo la sua bio su Twitter, prima di dargli la parola, perché è meglio che lo fai tu, che sei più brava conduttrice. Allora, fanaticamente autoironico, consulente sconsolato di comunicazione pubblica e politica, professore universitario. Perché molti hanno detto quello di Grillo è stato un suicidio dal punto di vista della comunicazione politica, perché era ovvio che andando lì si sarebbe fatto contestare. Allora noi auguriamo la buona serata e diamo il benvenuto a, do prima l'account di Twitter, sì, giusto, Chiocciola Marodri. Buonasera al professor Mario Rodriguez. Buonasera a tutti. Marodri, buonasera. È bellissimo, professore Marodri, sì. Mi piace molto. Ma sì, è complicato, mi hanno detto che non si riconosce, anzi ero stato criticato moltissimo degli espertoni. No, io invece lo appoggio con entusiasmo, perché una volta che si impara ha un bellissimo senso. E conferma che non saremo mai d'accordo tutti su tutto. Ecco, per fortuna. Ecco, allora parliamo di quello di cui non siamo d'accordo. Io e Daniele Bellasio questa settimana, cioè queste proteste e le prese di posizione sull'arrivo di Beppe Grillo. Allora, Bellasio pro Grillo, io ciccinino meno. Daniele, chiedevi appunto al professor Rodriguez. È stato un suicidio dal punto di vista della comunicazione politica? No, guardate, quello che conta secondo me è l'autenticità. Le persone possono persino accettare un errore se questo è compiuto autenticamente, se è le persone perdonano, comprendono l'elemento della l'importante è che non appaia doppio, e d'altronde poi non potremo mai appassionare nessuno se non siamo appassionati. Guardate, la comprensione che avviene nei processi di comunicazione non è come la comprensione che avviene leggendo una pagina di un libro o di un trattato di logica. Fa salti, prende scorciatoie, queste scorciatoie sono molto spesso, noi diciamo, emotive, ma non emotive in senso negativo. Attivano dei sentimenti profondi. Non credo, Grillo si è dimostrato autentico secondo me nell'andare lì, ha fatto una cosa che rientra nel suo schema, e quindi il suo schema è fatto di luce ed ombre, di generosità, di spregiudicatezza e anche di un tentativo così di forzare un po' la mano con dei tentativi un po', diciamo, come possiamo dire, retorici, senza dare un'accezione negativa. Non credo che sia quello è un mattone, another bricks in the wall, un altro mattoncino nella costruzione della reputazione di Grillo, che in questo momento forse mostra qualche limite, perché il grande confederatore delle rabbie, anche giustificate, della società italiana, sta facendo fatica a trasformare queste rabbie, non voglio dire le parolacce, in capacità concreta di intervenire nella modificazione della realtà. Certo che essere autentici, scusa Marta, nei momenti in cui ci sono situazioni appunto di crisi dove la rabbia nasce spontanea, è molto difficile. Abbiamo visto anche con il sindaco di Genova, Dorio, non si è capito, da un certo punto di vista verrebbe da dire: ma che male ha fatto? Non gli hanno comunicato in tempo forse quello che stava succedendo? Non fa il meteorologo da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista, però, non ha saputo trasmettere l'idea di una amministrazione subito al lavoro. Perché è così difficile in momenti di emergenza azzeccare le mosse giuste per dare fiducia a chi deve, come dire, agire? Peraltro i social, che poi reagiscono subito con estrema violenza, non ti perdonano nulla, neanche un momento di ritardo. Assolutamente. Però a me, che non sono un entusiasta di questa modalità poco empatica di relazionarsi al mondo che ha il sindaco di Genova, mi è sembrata anche lì una persona vera, una persona che anche dimostrando e denunciando certi limiti ha avuto il coraggio di presentarsi per quello che era. Poi c'è sempre un'accentuazione molto, molto forte. I social sono un'arena molto particolare, che non sono un indicatore di sentimenti, di opinioni, ma non sono l'indicatore della medianità o della opinione diffusa. Anche per Grillo credo che soltanto il 5% dei suoi elettori abbia frequentato la rete e i suoi meetup. Quindi non attribuiamo poi a quello che succede in rete diciamo, come se riflettesse quello che succede nella società. Non è così. E poi le rabbie passano, credo che tutte le persone avessero assolutamente il diritto di essere arrabbiati e credo che i politici dovessero avere il dovere di prendersi 2 ore di insulti. Vero, vero. A proposito di rabbia, tanti video in rete, sì, tante contestazioni. Una delle accuse che sono state fatte a Grillo è stata quella di aver fatto una passerella. Sentiamo proprio un estratto di una legittima, comprensibilissima contestazione, arrabbiatura di alcuni ragazzi di Genova. Secondo te Grillo è venuto a fare passerella? Ma sì, ma come tutti, fa anche lui la sua passerella, viene qua, dice gli altri non hanno fatto niente e lui sta lì a far niente anche lui, tutti a far niente, facile dire gli altri devono fare, Renzi non ha fatto, quell'altro non ha fatto, però lui non è che fa qualcosa, è lì, viene qua in motorino, si fa vedere e se ne va. I parlamentari sono a spalare, i parlamentari sono venuti da Roma a spalare. Io non li ho visti, io non li ho visti, io non li ho visti. Vabbè, io vedo quello che credo. Tu guarda sui social network e guarda, sono qua che fanno le qua, ti metti un po' di fame. Mi è piaciuto questo passaggio dove dicono, vabbè, sui social network, perché... Una volta si diceva, lo dice il TG1, adesso guarda sui social network. Guarda sui social network, è interessante questo punto. Se c'erano non l'hanno comunicato benissimo, che c'erano i parlamentari. E questa è la cosa, questo è il mistero. Sono tutti lì a spalare. Ma io dove? Non, io non, lo so, non avendolo visto sui social... Non esiste. Non esiste. Questo Grillo è doppio però di per sé, perché è dentro ma fuori le istituzioni, è leader ma è anche un voto, una testa, uno come tutti. Per lui è più difficile in questa fase, dicevi che si vede qualche crepa nella sua immagine. Cosa avrei consigliato io anche da consulente di comunicazione a qualcuno? Avrei consigliato di andare a lavorare, non comunicarlo e sperare che una viralità spontanea o spintanea, ma credibilmente spontanea, facesse apparire che tu hai lavorato. Non appare un gesto autentico, e il gesto autentico è la rete, come avete detto voi, come state dicendo voi da tante puntate, ha diminuito moltissimo i margini della bugia, perché immediatamente nel passaparola che si genera in rete la verifica dell'affermazione arriva immediatamente, perciò non si può che essere autentici. Radio Tube. Eccoci ancora con, sì, Radio Tube, Marta Cagnola, Daniele Bellasio. Abbiamo ancora Et di Bellasio. Cancelletto Radio Tube. Abbiamo ancora il professor, sì, Mario Rodriguez. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera ancora a tutti. Ciola Marodri. Sì, no, prima parlavamo di chi vota 5 Stelle. E diceva, sì, Mario, diceva, ma anche chi vota 5 Stelle non è che sarà il 5% quelli che frequentano la rete, i meetup, non è che sono proprio tutti degli invasati informatici. Ma chi vota? Chi ha dato questa risposta, Daniele? Noi abbiamo parlato di loro tante volte, molto tempo fa. Il terzo segreto di Satira, sì, che fanno delle bellissime cose via web, sono sbarcati per la prima volta a Piazza Pulita con una loro striscia satirica, quindi web che va in televisione. E che arriva alla radio. E che arriva alla radio, ma... Chi vota? Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Vediamo un pezzettino del terzo segreto di Satira. Qualcuno vota 5 Stelle perché crede a qualunque cosa dica internet. Ma ti rendi conto che ci sono le scechimiche? Sveglia. Ma ti rendi conto che i vaccini provocano l'autismo? Sveglia. Ma ti rendi conto che si possono guadagnare un sacco di soldi con un click? Sveglia. Come guadagnare 287 euro online? Qualcuno vota 5 Stelle perché legge Travaglio, guarda Travaglio e pensa che Isabella Ferrari sia una brava attrice solo perché lavora con Travaglio. Qualcuno vota 5 Stelle perché vede con sospetto le promozioni. Barcellona? Ma che offerta? 49 euro, albergo e volo, è perfetto. No, andiamo a Madrid. Ma Madrid costa 200 euro, scusami. Io non vado dove decide il sistema, a Madrid. Qualcuno vota 5 Stelle perché non vuole mai fare alla Romana. Cosa dite, facciamo la Romana? No, facciamo i conti che ognuno fa il suo. Lui ha preso la birra piccola, noi abbiamo preso tutti la media. Vabbè, ma dai, è uguale per me, vale. Tu hai preso? Una birra piccola. 3,50. Margherita la comprova. 4,2. Qualcuno vota 5 Stelle perché a 40 anni vive ancora coi genitori. E allora, uniti, Paolino, per la rivoluzione. Paolino, la pasta! Sta pronto un cazzo, mamma, sto registrando! È geniale, Paolino butta la pasta. Io le trovo tutte straordinarie, sono perfette. Sono bravi, sono molto bravi. Sono bravi. Però questo video in realtà si conclude parlando del PD, perché sono a colloquio un elettore del Movimento 5 Stelle, un elettore del PD, che si confrontano. Uno spiega all'altro chi è l'elettore del Movimento 5 Stelle e l'altro poi chiede, sì, ma tu perché hai votato Renzi? Eccolo. Rispondimi, ma tu, non qualcun altro, tu, perché hai votato Renzi? E perché giovane, comunque non per gli 80 euro, Beh, comunque non per gli 80 euro è bellissima. Non è una manovra elettorale. Parliamo di... Sì, dai, parliamo dai, anche un po' della comunicazione. Dai, sì, un pochino dobbiamo farlo. Dai, approfittiamo della presenza del professor Rodriguez. Però non abbiamo ancora letto la sua bio ufficiale che c'è nel sito. Ah, in mrassociati.it. Oltre a quelle di Twitter esistono nel mondo. Va bene, fai tu. Ha fondato MR Associati per occuparsi di comunicazione politica, pubblica amministrazione e energia. Insegna comunicazione pubblica a Milano e comunicazione pubblica politica a Padova, scrive su Europa, legge Damasio. Ci piace molto anche la vita seria. Anche, ecco. Beh, insomma, noi spesso parliamo, quasi sempre parliamo ma non facciamo neanche la domanda. Allora, a un esperto di comunicazione uno non fa neanche la domanda, dice il nome, Matteo Renzi. Vai, Mario. È Matteo Renzi, però allora guardate che noi non votiamo per la lista della spesa, per la nostra convenienza economica, per queste votiamo noi non, se non abbiamo un'identità, se non sappiamo chi siamo, è difficile che abbiamo degli interessi. Quindi l'elemento fondamentale innanzitutto è la nostra identità e poi stabilire un patto di fiducia. Votiamo facendo dei salti logici. L'umano, non l'essere umano, gli uomini, le donne non sono dei calcolatori contabili, non si vota per la ragioneria, si vota per il futuro. Non spaventiamoci del fatto che si vota perché una persona ti ha dato fiducia, perché quello che ha fatto, quello che ha detto ti sembra più comprensibile, più affidabile di quello che ha detto un altro. Abbiamo bisogno di creare un senso che ci motivi a un comportamento. Grillo l'ha fatto, Berlusconi l'aveva fatto, la sinistra italiana che per 20 anni ha rifiutato di comprendere che senso attribuivano a Berlusconi gli elettori di Berlusconi, non sono riusciti a sconfiggere Berlusconi. Ho una domanda da 10 milioni di dollari, posto che se anche mi sapesse rispondere, esatto, non anche ce li ho, quindi anche rate, comode rate da ci sto rate 24, diciamo. Ci sto da 80 euro mensili, sì. Ci sto ripensando. Ma Matteo Renzi avrebbe avuto la stessa incisività senza i social network, per dire, all'epoca semplicemente della televisione, della comunicazione politica che passava per la TV? Beh, bella domanda. Però guardi che anche prima della televisione e prima, quindi prima di internet, noi abbiamo avuto fenomeni di massa, fatti con dei comizi, con dei discorsi, anche quando i mezzi di comunicazione erano diversi o meno efficaci o meno pervasivi, la costruzione di senso alla motivazione dei comportamenti è stato l'elemento centrale. Napoleone è uno dei più grandi comunicatori della storia, ha continuato a vestire la sua giubba anche da imperatore, fatta con tessuti molto e da sarti molto più scaltri e di qualità, ma ha tenuto degli atti simbolici fondamentali per costruire la sua reputazione, il suo mito. Le tecnologie hanno modificato il modo attraverso il quale si formano i significati, ma il senso che ha motivato l'azione degli umani rimane l'elemento fondamentale. Non capiremmo le crociate, la prima intifada, non capiremmo quando abbiamo tentato di spiegare soltanto un fatto economico, sociali o tecnologie i comportamenti umani, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto immettere un'altra variabile, che è la variabile della costruzione del senso, della motivazione. In questa costruzione di senso, l'autenticità, come dicevi prima, è decisiva. Sicuramente Matteo Renzi, prima di fare una cosa, pensa anche a comunicarla. Pensa che la politica sia comunicazione e azione assieme. Finora è risultato autentico. nonostante tutto, nonostante le critiche di molti osservatori col ditino, è risultato autentico. Che cosa può incrinare questo meccanismo e che cosa può far perdere questa autenticità alla comunicazione di Renzi? La mancanza di credibilità, cioè la mancanza di corrispondenza tra la sua promessa e il suo comportamento Quindi solo il tempo risulta. Decide, solo il tempo sarà. Adesso si parva l'ICET, mamma mia, ho una paura tremenda dell'esempio che mi viene fuori, ma quando quel ragazzo biondo che ha cambiato la storia dell'umanità, almeno biondo nell'iconografia ufficiale, ha detto chi crede in me vivrà in eterno. Quello con la barba, dici? Esatto, sì. Quello, un rottamatore casinista pazzesco che ne ha fatte di tutti i colori, ma se lui non avesse mantenuto fede con il proprio comportamento alla promessa chi crede in me vivrà in eterno e fino al sacrificio finale, la sua promessa sarebbe stata come quella di un altro filosofo stoico, di qualcun altro che già nell'ellenismo ci aveva detto di amare il prossimo. Ritornando molto nel fango del secolo, Reagan una volta ebbe a dire se riesco ad apparire credibile ho risolto i miei problemi. Cioè il problema è una perciò per esempio capisco la sua irritazione per il servizio a Forte dei Marmi. Vi ricordate Monti quando la domenica mattina, la prima domenica da Presidente del Consiglio, viene fotografato con Loden che a piedi con una scorta molto discreta un po' lontana e la moglie va alla messa della domenica mattina? Beh, quella fu una svolta da un punto di vista delle immagini, delle fotografie, delle immagini che segnano il nostro tempo, molto importante, no? Perché e quanto era falso invece nello spot all'americana col cagnolino e come le due cose non tenessero e si capisse la strumentalità di quella costruzione artificiale, no? Se Renzi perde la coerenza interna, il tonfo può essere molto grosso, ma finché lui riesce a tornare a Pontassieve la domenica, a dare questa sensazione anche antipatica, anche maleducata, di non considerare i salotti romani come un elemento che condizionano la sua vita, se mantiene questa spavalderia un po' guascona che a volte spaventa, di rapporto con i poteri consolidati dell'intelligenza, ha una certa credibilità, poi casomai no, non tutti gli danno ragione, non tutti gli consiglierebbero di fare quello, però un paio di intuizioni le ha avute e sembra mantenere questo ritmo, perché se no non riusciremmo a capire perché il suo consenso rimane alto, nonostante molte critiche. Però l'Italia era davvero in palude e quindi questo ragazzo, quest'uomo giovane, perché poi in fondo tanto ragazzo è già più vecchio di quell'altro, insomma, non è un uomo, a quell'età quasi tutti gli uomini hanno fatto le cose più importanti della loro vita, sta facendo delle cose che non ci aspettavamo venissero fatte. Anche i numeri di questa finanziaria sono completamente diversi dal chiacchiericcio, certo, che abbiamo sentito. Almeno c'è del coraggio, almeno c'è uno che prova, almeno c'è uno che ci dà un po' di passione, che ci dice non tanto cosa dobbiamo fare, ma perché lo dobbiamo fare. Why, how, what, perché, come, che cosa. Lui sta puntando sul perché. Il discorso al Parlamento europeo, per esempio, è il perché, non cosa, e sta modificando anche nella retorica del discorso pubblico. Lui parla sempre dei perché dobbiamo fare delle cose, non tanto del cosa dobbiamo fare, e questo è un elemento di forte motivazione. Poi vedremo, possiamo andare a sbattere, speriamo di no, ma questa sembra una delle cose più innovative e mi pare funzioni fino adesso. Grazie professor Rodriguez per essere stato con noi, buona serata. Grazie buona a voi, serata. Grazie a chi ci ascolta. Buona serata. Lo ospitiamo di nuovo, lo richiamiamo. Senz'altro, senz'altro, in una Marodri. Delle prossime puntate. Come vola il tempo, come quando vola, ci si diverte. Oh, come vola. Quanti, la parte cose finale parlato di RadioTube ormai, sì, è sempre più intellettuale e alta, lo sai, Marta? Sì. Per scelta, è una scelta editoriale? Ma non lo so, forse perché è alla un po' fine snob quasi. Ah, ma senti, ma che citazione. Che bravo che sono. Bravo. Dai, volevo farti questo regalo, perché sì, questa settimana... Perché lui è di Asti, eh? Eh sì, mi hai mandato tutta sola a Rocchetta Tana. Non mi hai neanche proposto di venire. Almeno alla festa mi hai detto vieni. Tra le righe te l'ho proposto, sì, tra le righe. Siamo stati a Rocchetta Tanaro, abbiamo viaggiato sotto molta pioggia e quindi insomma con il pensiero che in realtà andava al Piemonte un po' più, esatto, giù, perché anche insomma, un abbraccio, c'erano lo Scrivia, c'era il Tanaro che erano particolarmente impetuosi, insomma il pensiero era parecchio preoccupato, però andavamo a festeggiare una persona che si merita un grandi esordiente festeggiamenti, sì, un esordiente di 77 anni. Ecco, partiamo con 91, sì, e finiamo a 77, che ha pubblicato un album, sì, dopo che secondo me si è divertito anni proprio. Ah, a fare. Sì, sì, sì, ma ce lo spiega. Vabbè, è Paolo Conte. Sì. È Paolo Conte. E l'album che si chiama Snob. L'album si chiama Snob. Io entrerei subito, così un po', sì, nell'aria e nel sapore di Snob, con questa Tropical, che è il singolo che insomma è uscito per primo da questo Snob. Mi piace molto pensare al singolo, senti, di Paolo, senti, Conte. Che sfondo stupendo. Sì, sì. Eh beh, questo è Tropical di Paolo Conte. Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Mm-hmm. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il Gero Vital. Illusional come il Gero Vital, ragazzi. Sai che quando sento Paolo Conte ormai mi viene in mente l'imitazione di Paolo Conte che fa Stefano Bollani. Che ma gli hanno chiesto, sai, gli hanno chiesto, ha detto che lui si è divertito molto e che no, lui non è bravo a fare collaborazioni, quindi, perché preferisce lavorare da solo. Però questa per canzone carattere ha qualcosa dell'ironia e della parodia, no? Di se stesso. Di se stesso, un po'. Lui si diverte tanto e ovviamente quel giorno lì è stato molto twittato, si è parlato molto di Paolo Conte, in tanti hanno poi twittato la foto dell'album che si erano comprati martedì mattina. E beh, è bella questa cosa perché lui è stato... non c'è sui social network, c'è un account ufficiale. C'è un account ufficiale che durante la conferenza stampa twittava le frasi di Paolo Conte, perché è bello che insomma i fan sappiano quello che succede. Twittava un po' di foto, lui non è proprio così un esperto, non è social. Ma gli piace essere un solitario. È e una quindi... social di suo. Ma sì, no, gli piace. Infatti siamo andati a trovarlo appunto nel Monferrato, era giusto così. E che ha raccontato? Ha raccontato tante cose. Sai, c'è una cosa che particolarmente mi è piaciuta e secondo me è un po' lo spirito col quale stiamo vivendo tutti un po' in questi giorni. Sì. C'entra la manovra? No, neanche l'articolo 18, c'entra l'altrove. L'altrove. C'entra questa costante e poetica, struggente, intensissima voglia di altrove. Ecco Paolo Conte. E la voglia dell'altrove, proprio l'ailleurs, che dicevano i francesi, tipico dei novecentisti, cioè che fa capitare delle storie magari quotidiane, semplici in sé, però proiettate per una specie di alibi, per una specie di pudore, proiettate in un altro mondo più colorato, più teatrale, ecco, tutto qui. E quindi io sono stato un po', mi sono servito molto di questa, chiamiamola tecnica a un certo punto, che è la tecnica del pudore in realtà. Ne sono servito e mi è difficile non servirmi ancora, che mi viene fuori. Conta Quinte, Maria, Maria. Conta Quinte, Maria, Maria. Conta Quinte, Maria, Maria. che è la mia preferita dell'album, si sposa molto l'Africa. Divertente. E la magia e regia di Peter Bescapè nel passaggio. È bravo Peter. Senti, ma questo alibi e questo pudore, sì, nel mi piace vedere, molto la tecnica questa, del pudore come definizione. Pudore. Lo sì, sapevo, perché assomiglia, sì, assomiglia all'ironia, al senso del limite, sono quelle cose lì. Tra l'altro molto presenti nel modo di cantare, di fare poesia, di scrivere dei piemontesi. È proprio tipica, sì, secondo sì, me. Sì, sei un po' di parte. Sono molto di parte. Visto che prima parlavi della bellezza del creare, sì. Ascoltiamo come ha raccontato Paolo Conte il fatto che la cosa che gli piace di più di tutte, sai cos'è? Si può dire? È il momento della composizione, Daniele. Momento della composizione. Della composizione. Ecco. Intanto è il momento più vergine, è il primo momento. Poi perché la musica ti dà delle sensazioni astratte che ti fanno star bene. E quando si tratta invece poi di mettere delle parole, allora hai a che fare con una certa precisione. Se siamo italiani, scriviamo in italiano, sappiamo cosa vogliono dire le parole, sappiamo se vogliamo dargli un doppio significato, anche questo, però... Quando si scrive musica si sogna, si sta in aria. Quando si scrive musica si sogna, si sta in aria. Ma sai che di musica forse parliamo anche domani? C'è domani? Sì, c'è domani, domenica alle 15 parliamo ancora di musica, non solo, perché parliamo anche di cose esperimenti. Cose particolari, di aria, musica, TV. Potremmo anche dire, Lo diciamo che abbiamo domani? Lo diciamo? Tu sai che io sono un suo fan, è dalla prima puntata anche stavolta che ti dico, quando chiamiamo quel signore non... Dai, allora domani dalle 15 alle 15.30 saremo con Alessio Bertallotti. Bravo, sono molto bravo, contenta, bravo. Anche lui è un po' piemontese, ragazzi, ah, sono sì? circondata non sapevo. Di da dove? Piemontesi. Lui ha abitato in provincia di Novara, è nato ad Aosta, quindi sempre quelle zone lì un Beh, po'... Beh, bello, mi piace questo giro d'Italia. Sono circondata da piemontesi, aiuto. Sì? Perché però, aiuto? Scusami. Però dai, Paolo Conte, ragazzi. Ma non c'è un enclave di piemontesi a Vimercate? Potresti indagare. Ci sarà. Daniele, sì, ciao. È finito il Abbiamo nostro finito tempo il per tempo. Oggi. Io sì. saluto Giorgio Albertazzi, forza, team Albertazzi. Ragazzi, ci risentiamo domani dalle 15 alle 15.30, ve l'abbiamo anticipato, con Alessio Bertallò. E poi vi ricordiamo i nostri account, chiocciola di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola su Twitter con l'hashtag RadioTube. Ringraziamo Peter Bescapè, ti ritroviamo anche domani e quindi buona serata, buon sabato sera a tutti. A domani. Ciao.